Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, io sono messo così. Io pure non me la cavo molto bene. Ma sei messo meglio di me. Capisci perché oggi è San Virgilio, siamo nella selva oscura, come diceva la guida di Dante. Mi hanno suggerito anche di mettere dell'aceto in un bicchiere, del ghiaccio tritato e farmi i gargarismi. Preferisco il mal di gola. No, preferisco tenere un mal di gola. Una specie di cerimonia di esorcismo iniziatico. Quindi. Esatto. Allora, cari ascoltatori. Caro Oscar, che dobbiamo dire? Io devo dirti che lo so che non è la notizia, però questa notizia Santanchè candidata a Torino non dove? Riesco a... Come? Italia Oggi perché? Ci annuncia che Santanchè. Dove Fassino è indebolito dai Raudo, i 5 Stelle sono divisi e Lega la Lega resta sotto schiaffo, la carta segreta è Santanchè candidata a Torino. Fermi tutti cari ascoltatori, Daniela Santanchè racconta questa meno Italia Oggi, si vorrebbe candidare a Torino. Sarebbe la scelta segreta di Berlusconi e a quel punto il compagno invece resterebbe al giornale, certo. Perché no, non perché si può candidare poi l'uni e gli altri. Sallusti che abbiamo invitato qui pare che siano arrivati i primi sondaggi e non butta molto bene per Sallusti. Sì, ma secondo me era più o meno quello che avevamo capito quando abbiamo intervistato Alessandro, cioè che in un, diceva esatto. Hanno fatto il mio nome, però vedrete che nei sondaggi diciamo che hanno previsto che se andasse a un ballottaggio con Sala potrebbe essere 20 punti sotto, 20 punti, 20 punti percentuali sono. E però il PD non basta perché Sala non lo vuole, questo è il bello. Quindi è una spettacolare gara di non si capisce che cosa, esatto. Questa cosa deve permare di qua e di là. Si vedrà che succederà. Quindi San Virgilio, portaci via dalla selva oscura perché qui non si capisce niente. Niente. E insomma, 800240024, l'ultimo giorno della settimana. Parliamo un po' delle varie notizie sui giornali. Se volete di politica, se volete anche, caro Oscar, dell'armiamoci e partite. Io lo dici sempre giustamente: l'Italia sta pensando e valutando che andare in guerra forse è sbagliato, ma quest'armiamoci e partite non ha molto da dire e da aggiungere e soprattutto non ha nessun contributo da dare al problema che a me sembra fondamentale. Prima di decidere di buttare bombe, esperienza irachena, capire prima con chi ci si va, ma che Siria vogliamo costruire dopo, cioè, altrimenti dà una mano agli estremisti. Sì, però questo è il problema di tutte le guerre. Cioè tu hai mai visto una guerra nella quale si era già pianificato il dopo? Quelle dal 2001 in avanti sono di tipo un po' diverso, no? Beh, ho visto nel secondo conflitto mondiale i capi delle quattro grandi potenze si vedevano ogni tot che a seconda dell'avanzamento delle cose belliche e iniziavano a dirsi: beh, noi abbiamo fin qua, ci spartiamo quest'area, quell'altra. Insomma, il secondo conflitto mondiale è andato avanti così, tra le grandi potenze. È andato avanti così, però Yalta è quella che ha stabilito il futuro dell'Europa. Sì, però dopo, per 50 anni. Dopo il 2001, cioè l'Afghanistan, l'Iraq, infatti, la Libia. Senza gli schemi di quel tipo porta a gran pasticci. E quindi tu dici: Renzi fa bene in questo caso in maniera prudente a dire: prima vi dite che cosa succede dopo in Siria, altrimenti io non mi imbarco in questa ennesima missione sconosciuta. L'errore di Renzi è quello di non dire neanche che bisogna avere una strategia, di non perseguirla perché vuole salvare l'Italia da qualunque tipo di attentato. Diciamolo chiaro che è una strategia anche di intelligence. Dopodiché inizio ad apprezzare che inizi a dire Libia, che il vero problema sta di fronte a noi. Però posso dire che secondo me questa idea di dire non andiamo lì così non ci fanno attentati è un'idea strampalata. Cioè, è un'idea perché non credo che uno che voglia farsi saltare in nome di Allah perché pensa di uccidere degli infedeli debba avere un pretesto per farlo. Se gli viene inculcato nella testa che deve farlo, lo fa, che noi andiamo a buttare le bombe in Siria oppure no. Sì, però insomma, siccome anche l'ISIS è uno Stato, insomma un'organizzazione criminale che ha le caratteristiche di uno Stato organizzato. In realtà noi qualche contatto indiretto, secondo me, di tipo diplomatico con i servizi, in qualche capitale araba, con i terminali estremi di quel mondo ce l'abbiamo, e stiamo facendo quello che si faceva ai tempi di Andreotti col colonnello Giovannone a Beirut, con le fazioni armate all'epoca dell'Olp, cioè dire amici, noi qui non noi muoviamo, siamo amici, ecco. E si dice anche armiamoci e partite. Peraltro ieri Renzi, ricordiamo il giorno in cui Hollande ha fatto un patto di ferro con Putin, si attenne anche il patto con Obama, è il giorno in cui Renzi si è dovuto ha dovuto fare un viaggio alle 8 del mattino presto, per andare a parlare all'Eliseo, si è dovuto imbucare per incontrare Hollande. Che cosa si siano detti non si capisce, al di là delle parole, delle dichiarazioni ufficiali. Ma certo, ha spiegato il fondamentale apporto alla lettera della lotta al terrorismo, la grande solidarietà alla Francia, di mandare i giovani diciottenni a cinema a vedere un po' di film francesi. Come sarebbe a dire, gli ha spiegato questo? Gli ce l'hai su con questa cosa? No, è il simbolo della misura italiana discrezionale, il governo dei bonus. Ti do gli 80 se stai buono, ti do i 90 se stai buono, se hai 18 ti do 500. Se sei professore ti do 500. Mamma mia, vabbè, insomma, queste cose si è capito non ti sono piaciute. No, per la pura discrezionalità della politica, che individua dove ha una gomma sgonfia e lì gli dice ecco che è in arrivo. Comunque gli avrà sicuramente spiegato questo fondamentale apporto della campagna antiterrorismo italiana. Vabbè, insomma, pare che Hollande gli abbia detto non è sufficiente, ecco, quello che fate voi non è sufficiente. Mi sembra però, la Francia è stata colpita nel cuore, c'è anche una differenza, no, di reazione. Ci fosse stato un attentato qui a Roma, a Milano, a Napoli, una grande città con 150 morti. Ecco, allora, se è vero quello che dici, però riflettiamo su questa cosa qua. Questa è la dimostrazione. Perché tutti uniti, però l'Unione poi Europea dopo... è una finzione pura. Che la signora Mogherini in realtà è una riccamente pagata, ma che era una disoccupata. Cioè, se vai a vedere la risposta che ogni paese membro europeo, la Germania, il Regno Unito, dà in maniera bilaterale distinta alla cosa francese, senza coordinamento, ci dice che l'Unione Europea, dal punto di vista politico, diplomatico, estero, è una pura finzione. Ma sulla l'Unione Europea, ma oggi ci sono europei e Draghi, ma attenzione, non può durare in eterno senza Europa politica, militare, eccetera. Io sono d'accordo con te e sono d'accordo che mettiamo nero su bianco proprio questo, ma se oggi leggi su Repubblica che c'era una lista di 85 persone dalla Francia data al Belgio, tra cui c'era questo Salè, c'era Abaud, c'era quest'altro Abrini che cercano, gliel'avevano segnalati da mesi e il Belgio che ha fatto ha ignorato tutto. Esattamente. E allora, però, evidentemente non c'è neanche l'unione, come abbiamo detto, dal punto di vista dell'intelligence. Ma figurati, l'intelligence di solito è la parte più restia. O la politica va avanti per anni a cooperare in maniera eccetera, poi arrivano i servizi. I servizi sono di solito quelli che sono ancora più restii a mettere insieme. Ma la politica, l'Unione Europea, ripeto, mi dispiace su questo... Il populismo ha elementi antieuropeisti, ha gli elementi a proprio vantaggio. Non c'è l'Unione Europea, non esiste. E alla fine si romperà anche la moneta andando avanti così. Dici? Ma certo, perché una moneta non può sopravvivere alla mancanza di politica comune, di una politica estera comune, di una qualunque cooperazione sui temi di fondo, immigrati, cioè dalle minacce esterne come la guerra, il terrorismo, agli immigrati. L'abbiamo visto cosa è successo dopo la svolta quest'estate della Merkel, l'esplosione totale, saltata Schengen. Allora, alla fine non crediamo che ci teniamo l'euro senza Europa politica, perché le unioni monetarie senza politica non reggono. Però sul fronte della sicurezza interna, intanto 800 24 00 24, se volete chiamarci, se volete mandarci messaggi anche WhatsApp 349 238 6666. Sul fronte della sicurezza interna a me ha colpito, però molti mi hanno scritto anche durante la rassegna stampa, guarda che negli altri paesi è normale, il fatto che il ministro Orlando abbia detto ora controlliamo le comunicazioni anche sulla PlayStation, sui siti dove si scarica la musica, sulle chat. Addirittura la Francia ieri ha notificato al Consiglio d'Europa la violazione esplicita della Convenzione su diritti dell'uomo di comunicazione. Cioè la Francia l'ha notificato formalmente al Consiglio d'Europa, una cosa che non capita praticamente mai. Io sono contrario, a dirti la verità. Io da liberale ritengo che questa storia di uno Stato inefficiente e di Stati inefficienti, lei ha appena detto tu gli esempi dei servizi segreti che ignorano, no, le segnalazioni di ciascuno dell'altro, e che poi mi vengono a dire a questo punto però il grande fratello pubblico ha pieno diritto a limitarti la libertà, a sorvegliarti nel bagno e così via, ecco, io non ho capito, però lì, mai. Sì, però lì in Francia uno di questi che ha colpito chattava proprio sulla PlayStation. Allora, cosa fa l'intelligence se non può controllare? Come fa a controllare? controllare. Distinguiamo. Un conto è controllare coloro che stanno sulle liste, dei sorvegliati e così via. Ho capito, altro, però devi controllare cosa fai, che si ti guardano a strascico in remoto per tutti senza filtro giurisdizionale. Però Roberti ci aveva detto che sarebbe stato, sarebbe Roberti tutto con vuole un filtro, fare con quello un filtro che vuole del lui. Il filtro del giudice, non lo so, come lo dice lui, poi l'ho capito dopo, non mi piace molto, perché è una cosa che resta riservata e inchiusa tra due magistrati a fianco l'uno dell'altro, quindi non funziona molto così. Comunque, sul fronte della sicurezza interna, sai che qualche giorno fa è successo che due poliziotti, in forma anonima, si sono presentati anche a Sky TG24 e hanno detto per esempio questo, sentiamone una parte. Così abbiamo apparati radio molte volte inefficienti, le batterie dei portatili si scaricano dopo pochi minuti di servizio, molti reparti hanno giubbotti antiproiettili scaduti, le volanti, alcuni operatori lavorano senza giubbotti antiproiettili sotto camicia. Insomma, hanno raccontato uno spaccato di operatori di forze dell'ordine che lavorano in situazioni di difficoltà. E naturalmente qual è la reazione delle istituzioni? Sono indagati, o meglio in via di identificazione per essere indagati. Non so che tipo di reato. Non è piaciuto. Noi salutiamo Gianni Tonelli, che è segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno a tutti Milano, buongiorno allora, a tutti Giannino. Grazie. Allora, Tonelli, questi poliziotti hanno fatto bene o hanno fatto male a fare questa denuncia anonima? Strabene. Perché? Strabene per un motivo, perché le condizioni in cui siamo costretti a lavorare e approfittando proprio del nostro senso di responsabilità, perché molte volte queste cose non sono messe in piazza, e hanno fatto sì che oggi la condizione sia totalmente inaccettabile. Non si è preparati ad uscire fuori, basti dire, potrei fare un elenco infinito delle motivazioni a supporto della mia affermazione, ma gliene dico una che vale per tutte: non abbiamo mai sparato su un bersaglio in movimento, quindi lezioni di tiro dinamico non ci sono mai state, di NPG neanche, quindi abbiamo delle grossissime difficoltà. Viviamo in ambienti luridi, per 1000 metri quadrati di un commissariato, io sono di Imola ad esempio, 2 ore alla settimana, e ci sono 100 euro all'anno di pulizie, 100 euro all'anno per la cancelleria, le divise ce le dobbiamo comprare, ci mancano 45.000 uomini, per cui c'è un problema di sicurezza per il paese e per noi. Sì. In queste condizioni poi andrei qui avanti all'infinito. Però Tonelli, alcune sono rivendicazioni sindacali, giustamente lei fa il sindacalista. No, non è che la faccio adesso come sindacalista, io dico soltanto che credo che quelli che sono principi sanciti da una legge fondamentale dello Stato come la 626 o come la 81, cioè il fatto di dire che si deve lavorare comunque in condizioni di sicurezza, valga anche per noi. Cioè, dopo i fatti di Charlie Hebdo, io ho fatto stampare, come sa, ma non è una rivendicazione sindacalista, mi mettevo a fare quasi l'istituzione. Cioè, abbiamo chiesto al governo di dover investire 6 milioni all'anno per poter consentire in 3 anni di mandare a fare un corso di formazione adeguato. Non si è fatto nulla. Come lei dice, non siamo pronti con le forze del mondo. Non siamo stati addestrati. Alla fine, in questo contesto di vergogna nella quale noi versiamo, qualcheduno ha un rigurgito di dignità e dire non si può lavorare in questa maniera. Tra l'altro sono gli elementi migliori, perché li conosco. Sono le persone migliori, quelle che producono di più, che rischiano di più, con dedizione, per 1300 euro al mese. Dice, in questo modo non possiamo fare il nostro servizio per la collettività. Come andiamo a reagire? Impieghiamo uomini che mancano, perché ne mancano 45.000, per fare indagini su chi, invece di andare a dare la caccia ai terroristi e ai mafiosi, su chi ha denunciato questa situazione doverosamente. Ma io lo farò in tutte le piazze in continuazione. Senta Tonelli, che dice del governo che stanzia soldi più, ha visto l'annuncio, la quantità anche degli stanziamenti, dagli 80 euro ai poliziotti? Io, dottor Giannino, sono molto prudente in questo senso, perché hanno parlato di 1 miliardo e già sono 500 milioni invece di 1 miliardo, perché gli altri vanno alla difesa per altri scopi. Poi 150, 200 sono destinati, dicono diamo 50 milioni per le attrezzature, ma io ho fatto un calcolo banalissimo, per la Polizia di Stato ce n'è 15 di questi milioni e basterebbero comprare 10.000 giubbetti antiproiettili, che tutti quelli scaduti, da sostituirli in grado di resistere all'attacco di un Kalashnikov, e per un caricatore in più, perché serve un caricatore in più, non solamente uno, e già questi 15 milioni nostri sono già andati via. Per quanto riguarda gli 80 euro non abbiamo ancora capito. Primo, dovrebbero essere una tantum e non strutturali, e quindi questo è uno zuccherino. Due, non abbiamo capito se verranno date, perché il Premier ha detto 80 euro per tutti gli uomini e le donne delle polizie. Lo farà in legge di stabilità, adesso vedremo. Sì, no, ma aspetti, ma ha detto altre due cose, perché questo che sono fondamentali. Cioè, prima ha fatto riferimento al provvedimento citando i 1500 euro, e allora questo qui vorrebbe dire che soltanto il 2% lo andrebbero a percepire, sì e no, e poi ha detto iniziando dagli uomini su strada, allora non è per tutti. Guardi, però questa Tonelli l'abbiamo già sviscerata nei giorni scorsi, sarà per tutti, ce lo ha detto anche il sottosegretario Manzione, a quanto lui risulta, perché se no sarebbe una norma discriminatoria darla ad alcuni e alcuni no, sarebbe discriminatorio. Perfetto, quindi. Però faccio una riflessione, ma questo non è perché io devo fare il bastian contrario. Purtroppo i tagli che sono stati fatti negli ultimi anni a causa di una crisi economica e di un apparato sbagliato. Ho fatto una campagna per un anno e mezzo e la continuo a fare per l'unificazione delle forze di polizia, perché spendiamo più degli altri, più di uomini degli altri, e abbiamo dei difetti straordinariamente di sull'efficienza, perché il 60% va nella logistica. Che senso ha, per farle un esempio, chiudere il posto di polizia ferroviaria a Viterbo per recuperare 7 persone a spese logistiche di un ente privato, di una società privata, se poi nella la stessa città manteniamo 8 centrali operative, 8 uffici amministrativi contabili, 8 uffici per il vestiario, 8 uffici per gli automezzi, 8 archivi generali, 8 mense, 8 e 8, sprecando centinaia di persone. Allora facciamo una razionalizzazione, perché con i tagli lineari noi stiamo debilitando il sistema. 45.000 uomini hanno debilitato il sistema, le dico soltanto questo, spostandoci dal lato del terrorismo e della criminalità per quella che è l'attività di prevenzione. In controtendenza quest'anno rispetto agli ultimi decenni sono aumentati di nuovo i morti, purtroppo, su strada per incidenti, purtroppo. Le chiedo questo però, Tonelli, mi scusi, oggi il Corriere della Sera scrive un articolo riguardante Salvini, e vabbè, riguarda Salvini dicendo che non informa la scorta degli spostamenti, però nell'articolo c'è anche lei, perché si dice Tonelli, cioè che Salvini si appoggia molto a Tonelli, tanto che l'ha invitato anche, lei ha partecipato sul palco. No, io non mi appoggio. Lei non è che fa politica, cioè non è vicino alla Lega. Rispondo, la ringrazio della domanda. Le spiego subito, guarda, il mio sindacato autonomo, apolitico e apartitico. Io vado sui palchi di tutti. Alla nostra manifestazione mancava solo Sel, c'erano anche quelli del PD, molto defilati, ma c'erano. Io vorrei andare sul palco di tutti, andrei molto volentieri anche sul palco dell'altro Matteo, ma non mi invita perché sa cosa devo dire. Quindi sotto questo che le sto dicendo adesso, io ben volentieri quest'estate sono un romagnolo, ho tentato di andare nelle feste dell'Unità, ma non mi hanno preso nel dibattito sulla sicurezza del resto, perché chiaramente sanno cosa devo dire, perché è questa la realtà che devo dire. Allora qui il problema non è che noi siamo vicini a Matteo Salvini, è che ci sono certi movimenti che sono vicini alle forze dell'ordine, e ce ne sono alcuni che sono avversi anche per un fatto preconcetto ideologico, ma è un fatto, voglio dire, da sempre storico. Certo. Allora, qui io non sono vicino a nessuno, perché un anno e mezzo fa non le conoscevo neanche. Lui che, voglio dire, si è avvicinato e in questo senso ci fa un percorso. Ma no, non però, è insomma, ma è chiaro, lo fa con tutti. Però, io ho degli ottimissimi rapporti, per esempio, con l'onorevole D'Ambrosio di Scelta Civica, e avevo con esponenti del nuovo centrodestra, anche di Alfano, non con Alfano, ma con alcuni dei suoi, avevo degli ottimi rapporti con parlamentari PD. Ma sì, ma è chiaro, equidistante o equivicino con chiunque voglia discutere di queste tematiche. Mettiamo così. Comunque io ringrazio chi dice, appartenente alle forze di polizia, che la vera scelta che la politica non ha saputo fare in questi anni è, rispetto a troppi corpi, mettere insieme, fare sinergia, fare ottimizzazione. Cioè questa roba qui, sentita da dentro le forze dell'ordine, acquista ancora più forza, perché è la verità, e la politica su questo ha delle colpe infinite. Allora, 8:36 minuti, noi la ringraziamo Gianni Tonelli, ovviamente del SAP, per essere stato con noi. Andiamo in pubblicità, ci sono gli ascoltatori anche che ci stanno chiamando, continuate a chiamarci su questo tema, la sicurezza, la politica, quello che volete, insomma, 800 24 00 24, noi siamo qui. State ascoltando un programma offerto da Più Libri Più Liberi, dal 4 all'8 dicembre al Palazzo dei Congressi dell'Eur, Roma. Eccoci eccoci, 8:41 minuti, caro Oscar. Eccoci qui. Vogliamo all'indomani di un nuovo pasticcio del governo, ma ne parliamo dopo perché abbiamo l'ospite. Qualche parola su questa roba che i giornali italiani non capiscono. C'è Ferrovie dello Stato, di cui ieri il governo ha mandato a casa così l'amministrazione, messo da lui stesso perché non si erano messi d'accordo in un anno e mezzo cosa fare. Allora ricordiamoci che Ferrovie dello Stato, cari ascoltatori, dal 1992 a oggi noi gli abbiamo dato a Ferrovie dello Stato, sommando tutti i sussidi pubblici, 219 miliardi. Questa è la cifra, 200, voglio ripetere altre volte, 219 miliardi. Questo è il peso sulle nostre spalle di Ferrovie dello Stato. Allora, vogliamo parlare dei problemi strategici o cacciamo di volta in volta quelli che i governi nomina perché non obbediscono abbastanza? Adesso ne mettono uno di stretta obbedienza, Fiorentino, però ripeto, 219 miliardi. Questa è la cifra. Sentiamo anche un paio di ascoltatori perché poi abbiamo un ospite da introdurre, Costantino da Napoli. Costantino, buongiorno. Buongiorno a voi. Io ho utilizzato uno stratagemma per poter salutare Oscar Giannino, che seguo da una vita. Cioè, lei fa il finanziere? No, sto scherzando. Sono un fans, come dire, ho anche una fotografia con lei. Siamo ai Santini, bello. Non faccio miracoli, lo dico subito. Delle Terme, una delle feste dell'Udeur. Persona illuminata. Bene, ma andiamo al punto. La lista fare. Andiamo al punto. Fatto votare. Il punto è che ho usato uno stratagemma per parlare di Bassolino, altrimenti non mi avrebbero collegato. No, ma noi siamo, guardi che noi siamo liberi e colleghiamo tutti. No, in altra occasione avevo tentato, volevo salutare. Perché sono in tanti, Costantino, non c'è, non passi questa immagine che ci sia una censura, siete in tantissimi. Per quanto riguarda Bassolino, io preferisco un politico navigato, un politico che sappia i problemi della gente, della città, nonostante diciamo abbia fatto, sia stato molto largo con le mani, ha portato, che questi politici fatti così in provetta, questi messi là dai partiti, dai leader, ma pure questo che ci sta adesso, diciamo, è un pesce di boccaccio, come si dice a Napoli, messo là. De Magistris. De Magistris, chi lo vuole sfidare, chi è la Santa Che è diventata quello che è diventata perché ha fatto parte del clan del capo, insomma. Vabbè, Costantino, lei mette però un po' tutto, però siccome la sintesi è un dono che non abbiamo in molti, lei vuole l'usato avere sicuro, insomma, ecco. Ecco, Costantino è per Bassolino, questo d'altronde Costantino te vedi che ci fai caso anche tu, Costantino, fan di Gianni, sta con Bassolino. No, allora Gianluca da Viterbo, buongiorno. E del resto anche come l'Italia è in guerra, noi no. Gianluca, eccoci. Buongiorno a lei. Volevo dirle praticamente, io sono un semplice magazziniere e mi ha dato Renzi, il governo di Renzi mi ha dato gli 80 euro e va bene, però volevo dire praticamente questi 80 euro, volevo parlare di una, ecco, in realtà spicciola. Ieri per esempio sono andato per prenotare una TAC. Sì. Naturalmente sono dovuto andare in un ospedale dove la TAC si poteva fare in tempi, diciamo, ristretti, 2 mesi. Sì. Il primo ospedale stava a 180 chilometri, roba del genere. Una volta arrivati in ospedale, naturalmente per pagare il ticket si va agli sportelli. Di 4 computer ne funzionava uno. Praticamente 4 ore di fila. 4 ore di fila vuol dire telefonare al negozio. È chiaro. Questo per dire cosa, Gianluca? Cioè, lei vuole raccontarsi la sua odissea con la pubblica amministrazione? Ecco, diciamo, invece di dare 500 euro ai diciottenni o gli 80 euro, ma comprare 3 computer, rendere efficienza la efficiente la pubblica amministrazione. Guardi, le regalerei volentieri. Allora, Gianluca pone un problema: scelte strutturali, organiche, e invece no a scelte discrezionali. Ma è interessante. Cioè, il punto è appunto: come dice, sistemiamo la pubblica amministrazione, mettiamo a posto, visto che paghiamo le tasse, che gli ospedali funzionino, che i servizi funzionino, invece di ogni tanto vi diamo 80 euro. Logica, scegliendo a chi sì, a chi no, a seconda è assolutamente logico e la ringraziamo. Vogliamo salutare il professor Marco Lombardi, che insegna alla Cattolica gestione delle crisi e rischi della comunicazione. Buongiorno, esperto di gestione di crisi nelle città. e purtroppo professor Lombardi in questo momento viviamo. Cioè, l'insegnamento del professor Lombardi sembra pensato profeticamente. Esatto, a quello che profeticamente. Avviene. No, ci spieghi intanto cosa vuol dire, come si vive, come si deve gestire una crisi in questi momenti in cui tutti, per esperienza diretta, lo vedo a Milano, non vanno sulle metropolitane, frequentano meno i luoghi cosiddetti sensibili. Guardi, non ci sono, non c'è un manuale con delle regole evidentemente precise, diciamo che ci sono dei criteri. Io direi che in una situazione come questa, in cui il rischio zero non esiste, e questo è un dato di fatto, in cui stiamo vivendo quella che io chiamo una guerra ibrida, la cosa migliore è essere consapevoli dei rischi e dei pericoli. Un esempio concreto, non usiamo, come dico io, come un mantra le parole facciamo tutto come prima. È giusto, se far tutto come prima significa non cedere al ricatto del terrore, questo va benissimo e deve essere consapevole, ma quando io dico non usiamolo come un mantra, non usiamo facciamo tutto come prima per far finta che nulla sia accaduto il venerdì scorso, questo è il punto fondamentale, perché in effetti a Parigi è accaduto qualcosa di importante che ha cambiato la situazione. Di conseguenza, se ci sentiamo più sicuri e più tranquilli, cambiamoli anche i nostri comportamenti. Quello che io intendo è che nulla di questo deve essere un riflesso, perché solo la consapevolezza di vivere il rischio ci aiuta ad trovare delle situazioni. Che vuol dire cambiare i comportamenti? Che vuol dire cambiare i comportamenti? Campare i comportamenti vuol dire, l'abbiamo sentito nelle interviste di questi giorni, anche dei parigini si guardano più attorno, accettano di buon grado quelli che fino a settimana scorsa non potevamo accettare, come una fila più lunga all'aeroporto o addirittura, come capita a Parigi in questi giorni, un metal detector che si inserisce tra te e l'happy hour a cui stai andando e cose di questo genere. Quindi non rifiutarli come avremmo fatto una settimana fa, ma rendersi conto che sono la domanda di sicurezza che ha la sua razionalità in questo momento e accettarli come tale e quindi cambiare i nostri comportamenti. Cambiare però i nostri comportamenti. Posso chiedere però a chi appunto sì, si occupa tecnicamente di come si comunica e gestisce la crisi, ma quando si arriva al punto che le forze di polizia, che protraggono per giorni blitz e non comunicano i motivi veri di quello che si rischia, Bruxelles, penso a questo, chiedono alla gente per le strade, da casa, negli uffici, non comunicate tra voi sui nostri spostamenti, e parte la campagna dei gattini, posso chiedere, ma solo non si esagera un po'? Sono assolutamente convinto che si esageri e questo è uno dei problemi principali. Se le istituzioni non aiutano la gente in questo senso, intendo dire non solo provvedono sicurezza in termini hard, duri sul territorio, ma non lo aiutano anche a vivere questo cambiamento che appartiene alla nostra cultura. Noi tecnicamente diciamo promuovere una subcultura del rischio, questa accettabilità del rischio significa questo. Però in questo caso la rilevanza, almeno io lo dico come giornalista, ma tutti noi ci siamo interrogati, viene dal fatto che lì l'input è venuto proprio dall'alto, da chi coordinava la sicurezza nazionale e locale in Belgio, e la cosa ci ha lasciato un po' perplessi, cioè ci è sembrato un invito comprensibile per certi versi, ma gestito per giorni con una totale approssimazione, o no? Sbagliavamo noi secondo me? Anche adesso professor Lombardi, io sono perfettamente d'accordo. Quello che, su cui noi insistiamo molto e piano piano si comincia a lavorare, è rendersi conto che la comunicazione è uno degli asset strategici, però quello che noi per chiamiamo il crisis management della comunicazione non c'è. Per esempio professor Lombardi, che ne pensa del ruolo proprio dei mezzi di comunicazione? Cioè in Belgio, anche ieri il ministro degli esteri ha detto ci sono 10 kamikaze pronti a esplodersi, farsi esplodere, poi ha detto nel pomeriggio, ma questa notizia, invitando i mezzi di informazione, tenetela un po' bassa, non date molto risalto a questa notizia. Questo è un impazzimento, voglio dire. Questo è un esempio e poi ne porto un altro. Assolutamente questo denota l'incapacità da una parte delle istituzioni di relazionarsi efficacemente con i media. È chiaro che se dai un'informazione ai media non puoi chiedere ai media di tenerla. Mi sembra, primo punto. Secondo, da parte dei media anche di rendersi conto che sono degli strumenti, vengono classificati i media come strumenti di quella che ho chiamato guerra ibrida. Faccio un esempio però italiano. Avete visto tutti voi ieri il clamore di quei 800 fucili a pompa che sono stati sequestrati a Trieste, no? Tutti i media nelle prime ore, senza probabilmente verificare che cosa fossero, hanno detto armi da guerra. guerra, grande quantitativo di armi da guerra sequestrate a Trieste. Allora, i fucili a pompa non sono armi da guerra, ma sono armi da caccia in tutto il mondo. Venivano dalla Turchia, perché la Winchester che li produce li ha delocalizzati in Turchia. Sono stati fermati avendo tutte le bollette a posto, perché in maniera sicuramente commettendo un errore. Ma infatti ha visto che poi, voglio dire, i giornali stamattina hanno tutti derubricato, perché i controlli e le notizie poi sono arrivate. Lì, lei ha ragione, in quel caso c'è anche una mancanza di tecnica molto spesso di chi fa informazione, perché nel tempo, quando c'era, io ormai sono vecchio, quando decenni fa, quando c'era il problema del terrorismo e della guerra fredda, i giornali e le testate radiofoniche, televisive, avevano i redattori specializzati in armi, sicurezza, terrorismo e, diciamo così, problemi di conflitti tra i due blocchi. Poi la caduta del muro ha fatto cambiare tutto, grazie al cielo non abbiamo più il terrorismo e oggi di gente, lo dico proprio con autocritica, dell'informazione versata e capace da subito di fare quegli accertamenti di cui lei parlava a proposito degli 80 fucili, degli 800 fucili, ce n'è un po' meno. Quindi è vero che l'informazione deve addossarsi le sue colpe, però a volte l'impressione è che le colpe si addensino in chi gestisce istituzionalmente il fenomeno, e quello preoccupa di più. Allora, in termini di gestione sono perfettamente d'accordo con te, sta dall'altra parte la colpa peggiore. Dall'altra io sottolineo sempre anche però più responsabilità dei media, sanno perfettamente che l'effetto della comunicazione c'è, non esistono teorie sugli effetti della comunicazione. Ma io questo voglio dire, noi da quando eravamo in diretta per tutta la giornata il sabato mattina, almeno in questa radio, noi ci siamo ispirati all'idea, signori, prima di inseguire e moltiplicare delle voci allarmistiche, noi siamo qua per darvi le notizie senza guardarle in faccia, verificandole e così via. Quindi facciamo nostre, mi pare, Alessandro, queste parole di assolutamente Lombardi. Assolutamente sì. E la ringraziamo ovviamente, professor Lombardi. Io devo raccontare in diretta una cosa straordinaria che è successa. Meravigliosa. Ascoltatori, voi non dovreste vedere. Dovreste vedere, ma adesso lo metto su Twitter. È entrata Elisabetta Fusconi durante, per portarci un pacco, perché siccome ho questa voce, insomma, abbastanza impresentabile, dalle 6:30. Allora, un apicoltore. Vi giuro, un apicoltore è partito da Trezzo sull'Adda. Borsa prodotti dell'alveare. Lo voglio citare, non è pubblicità, è perché sono come l'apicoltura Ortelli, è partita da Trezzo sull'Adda e ha portato qui, adesso ce lo dividiamo perché anche Oscar, propoli masticabile, miele, caramelle di propoli. Sono gli ascoltatori. Ma vi rendete conto? No, ma sono il premio vero per quello che Alessandro che fai tutti i giorni da molto tempo. Bisogna che tu lo sappia, perché... No, ma questo si è spostato, ma sono commosso. È giusto. E grazie all'apicoltura Ortelli poi grazie per quello che fa Alessandro. Dai, te lo dico io da collega, perché non mi associo, perché io sono ascoltatore prima che da tanto tempo, e quindi grazie. E però guardate, cari ascoltatori, che non è una commedia. Lo sto mettendo su Twitter. Nel frattempo, lasciami dire una parola su questo che oggi mi ha molto colpito, no? Cioè, il povero ricco dei record. Allora, imprenditore di Marsala, imprenditore siciliano, dichiarava da anni 12.000 euro l'anno, da 10 anni era sempre quello. Peccato che gli hanno sequestrato 127 milioni. Solo! E 127 milioni aveva tra l'altro decine e decine di veicoli, eccetera, eccetera. Allora, finché capitano queste cose, chi la pensa come me purtroppo viene più bastonato, cioè chi vorrebbe meno tasse e così via. E ogni tanto a me tocca dire che quando beccano questi signori qua io sono felice. Perché io voglio essere coerente, io voglio meno tasse, ma voglio anche meno gente che ci prende per i fondelli. Evviva! Con questo messaggio, caro Oscar, ci troviamo tu domani, sabato, i Conti della Belva, anche oggi pomeriggio, e poi qui lunedì. Ok, cari ascoltatori, continuate su Radio 24 con Mix 24, Giovanni Minone e la sua squadra, mi raccomando.